Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Live Session. Da questo momento verrà trasmesso il programma Style Hard Body. Selezione Hard Style a cura di Electroshock DJ. Magic Dreamer. Live. Stai ascoltando il programma Art Style su Radio Live Session. Live Set DJ. Seleziona la sua musica per voi. Electroshock. We'll be right back. Electroshock. Thank you. Generazione Hardstyle Electroshock vi sta presentando il suo programma di tendenza. E ricordiamo l'evento Famiglia Revolution e Live Session insieme. Domenica 19 aprile, Special Set XL Club Mr. Tatanka. Stai ascoltando Electroshock DJ, la musica from Magic Dream. Style Hard Body. e un saluto speciale va a Tania. Ciao. Simix e Valentina, Electroshock ti saluta. E ricordiamo l'evento del 24 aprile, XL Revolution, dalle ore 23, in esclusiva Ginger e Francesco Zeta. Radio Live Session saluta Ricky Watt. Radio Live Session, mixa e seleziona Electroshock. Ricordiamo inoltre a tutti gli ascoltatori che dopo il programma Style Arbadi andrà in onda il set elettronico Acid Groove, selezionato e curato da DJ Vulpix. Per maggiori informazioni su eventi Revolution, contattare DJ Vulpi on Radio Live Session. Radio Live Session saluta tutta la generazione e il popolo hardstyle. DJ Electroshock su Radio Live Session. Magic Dream. Stai ascoltando Radio Live Session, la nuova frequenza della musica di tendenza. We're so overused to hear the rock word, I like to use it now too. But when I say rock, I mean Style Hard Body è il programma hard style di tendenza. Electroshock DJ. Ricordiamo inoltre l'appuntamento di domenica 19 aprile, ore 15, XL Revolution presenta il Bisonte Tatanka. Per informazioni e liste rivolgersi a Radio Live Session. È il 24 aprile, speciale evento della Liberazione. Ospiti all'XL Revolution, Ginger e Francesco Z. saluto da Radio Live Session ai ragazzi di Roma e ai ragazzi dell'Art Forum. Ciao! Saluto speciale alla famiglia Revolution. Shock, altera il cursore, live session. Space.

ricordiamo dopo l'appuntamento Hard Style in onda su Radio Live Session andrà avanti il programma elettronico condotto da DJ Vulpis. Quindi mi raccomando, in linea per Radio Live Session, Acid Groove. Ciao Marco da Radio Live Session. Saluto a tutti coloro che erano presenti allo chalet e un saluto da Vulpis Radio Live Session a tutti i ragazzi della chat. Vi aspettiamo domenica 19 aprile. XL Revolution presenta Tatanka. E in questo momento la musica è mixata e selezionata da DJ Electroshock. Magic Dream. Danielino e Simone Cirie. Ciao! Voices waiting. E vi ricordiamo inoltre, dopo Hard Style Puro Suono, ci sarà il programma elettronico. Quindi 5 minuti di pubblicità per poi ripartire. E adesso ancora sintonizzati con la frequenza di Electroshock DJ. Come on! Live Session. E siamo arrivati così all'ultimo disco per Electroshock e l'appuntamento Style Hard Body. Electroshock vi saluta con il suo ultimo disco e vi dà appuntamento alla prossima volta su Radio Live Session. Cocaine will bring you to a huge, immense, serious climax. We are public enemy number one. This is fucking paradise. Cocaine. Cocaine. Cocaine. Grazie, Electroshock. Cocaine. Gli amici della barriera. Ciao. Cocaine. Cocaine, speed, mushrooms, mescaline, MDMA, and all that shit. Illegal cocaine for the Dutch society. Cocaine, your biggest friend. Cocaine. scar your motherfucking face, motherfuckers. Fucking bitches, your fucking money, your fucking gods, your fucking ass, your fucking gun, I'm gonna kill you by my fucking hands, you fucking motherfuckers. Magic Dreamer. Polly e Diego di Roma. Ciao! Samu Robassomero, un saluto da Vulpix. E un saluto da a tutti quanti gli ascoltatori da Radio Live Session. Vi aspettiamo tra meno di 5 minuti, giusto per una pausa, e ritorneremo con Acid Groove, il programma di tendenza elettronica proposto da DJ Vulpix. A presto, Live Session!